Grazia. La prima rata TASI per i comuni in ritardo con le delibere si pagherà entro il 16 di ottobre, annuncia Fassino a Radio 24. Nessun rinvio per l'IMU, grande confusione e rischio di aumenti molto elevato. Ancora 48 ore di una campagna elettorale molto, forse troppo calda. Oscilla intanto lo spread, in mattinata è arrivato a toccare i 200 punti base per poi ripiegare sotto i 180. Si va verso un addio ai test d'ingresso a medicina, accesso libero al primo anno e selezione alla fine. Questa è l'ipotesi del ministro Giannini, tra poco ospite di Effetto Giorno. La CIA ha usato programmi di vaccinazione per arrivare al nascondiglio di Bin Laden. Da allora i talebani hanno ucciso 56 tra volontari, medici e personale impegnato su queste vicende. È stato siglato poco fa un memorandum per l'accordo sulla fornitura di gas tra Russia e Cina, 38 miliardi di metri cubi l'anno, un accordo che vale oltre 400 miliardi di dollari, dice Gazprom. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, se volete le potete commentare come sempre al 349-238-6666 via sms, c'è la nostra pagina Facebook, c'è l'account Twitter, il mio personale, Simone Spezia. Tra poco verremo nuovamente alla TASI, per quanto riguarda tutti gli aspetti pratici vi rimando al podcast di questa mattina di Cuore e Denari che se ne è occupata ampiamente, e parleremo delle scadenze e parleremo soprattutto della grande confusione che regna. Ma prima di tutto facciamo un punto sulla campagna elettorale. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, lo dicevi nei titoli, a quattro giorni da questo voto si alzano i toni della campagna elettorale caratterizzata sempre di più dagli attacchi incrociati fra i leader dei principali partiti e, dobbiamo dire, in particolare fra Beppe Grillo e Silvio Berlusconi. Da questo scontro prova invece a sottrarsi Matteo Renzi. L'Italia, ha detto stamattina il Premier, merita più degli insulti e degli urli e dei vaffa, loro sono due uomini di spettacolo, noi invece vogliamo cambiare il paese, ha detto Renzi, che rivolto ai 5 Stelle ha anche ribadito che questo è un voto sull'Europa, non sul governo. Ma dicevamo dello scontro fra Berlusconi e Grillo, il leader di Forza Italia, che ieri, lo ricordiamo, aveva definito Grillo un assassino, stamattina ad Agorà è tornato sulla questione. Sentiamolo. Io ho semplicemente ricordato, dopo aver visto un filmato in cui lui moraleggiava sul mio conto, ho semplicemente ricordato che lui è un signore che è stato condannato per aver ucciso con colpa tre persone nel 1988. Vinceremo le europee, poi chiederemo le dimissioni di Napolitano ed elezioni anticipate, ribadisce dal canto suo invece Beppe Grillo, che stamattina annuncia anche che dopo il voto organizzerà un processo popolare online contro politici, imprenditori e giornalisti. Alle critiche per il suo linguaggio volgare e a volte anche violento, il leader dei 5 Stelle ieri sera invece ha replicato con, diciamo, un elogio della parolaccia. Sentiamolo, poi la linea può tornare allo studio, Simone. La parolaccia veicola un significato al cuore, e anche questa rabbia che ci sembra, che ci spreme, è una rabbia buona, è una rabbia giusta, è una rabbia che ci ha unito, è una rabbia che ha unito milioni di persone in piazza, non a spaccare vetrine o a combattere con la polizia, ci ha riunito in 10 milioni per diventare il primo movimento italiano. E adesso parliamo di tasse e parliamo ancora una volta della TASI e dell'IMU. Saluto innanzitutto Gianni Trovati, che sempre ci accompagna in queste cose, il Sole 24 Ore. Gianni, buongiorno. Buongiorno a voi. E però prima sentiamo che cosa ha detto Piero Fassino, il presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, e sindaco di Torino, intervenuto da Alessandro Milan oggi. Quest'anno, come è noto, ci sono le elezioni amministrative che toccano migliaia e migliaia e migliaia di comuni, e tutti questi comuni hanno sciolto i consigli comunali all'inizio di marzo, come da legge, e tutte le, diciamo, le disposizioni relative all'applicazione della TASI il Parlamento le ha approvate in fase successiva. E quindi non era possibile tecnicamente, insomma, non era possibile. Tecnicamente era possibile riconvocare i consigli in seduta straordinaria, ma insomma capiamo tutti che poi in periodo elettorale sesto è sempre molto molto difficile. Senta, lei quindi quelli che hanno approvato, certo, le aliquote pagheranno. E tra questi queste ci saranno tutte le grandi città, da Torino a Milano a Bologna a Venezia, che tutte città che non andavano al voto, quindi il Consiglio Comunale ha potuto riunirsi e deliberare, e quelli, diciamo, i contribuenti delle città che hanno deliberato pagheranno, come la legge già prevedeva, regolarmente il 16 giugno. I cittadini dei comuni in cui non si sono deliberate le aliquote pagheranno il 16 ottobre con aliquote che i comuni devono determinare entro il 31 tempo in cui si sono insediati i nuovi consigli. Lei mi ha detto, scusi, la data 16 ottobre, cioè perché, sì. perché si parla di settembre, invece è stato deciso quindi al 16 ottobre. Diciamo, quello che è stato convenuto con il Ministero dell'Economia il 16 ottobre, perché il 16 settembre era molto ravvicinato rispetto alla scadenza del 31 luglio come data ultima per la determinazione delle aliquote. In tutto ciò, appunto, come già si diceva, nessun rinvio per l'IMU, ci sono molti dettagli sul Sole 24 Ore oggi in edicola, tra l'altro c'è anche la lista dei comuni che hanno già deliberato. Gianni Trovati, quello che possiamo commentare è che sarà un inferno per i contribuenti. Ma la cosa bella è che ogni parametro è discutibile a questo punto, perché il Ministero dell'Economia in un comunicato ufficiale ha parlato di rinvio a settembre, Fassino parla di rinvio al 16 ottobre, tra l'altro con ottimi argomenti, perché settembre è un mese che sarebbe a rischio di nuovo caos e nuovi rinvii, eccetera. Aspettiamo a questo punto la decisione del governo, che dovrebbe arrivare oggi, domani, con un decreto, perché non basta un comunicato a rinviare una scadenza fiscale, servono delle leggi, eccetera, e soprattutto speriamo che questo decreto, qualunque cosa dica, sia l'ultimo in materia. È una speranza, diciamo, probabilmente nobile, probabilmente smentita poi dai fatti successivi, ma questo è perché non c'è oggi un criterio univoco valido per tutti. Allora, grazie a Gianni Trovati per questo commento. Vi ripeto ancora una volta, se volete dettagli pratici, c'è la puntata in podcast di Cuore e Denari di oggi, di questa mattina, e poi naturalmente il Sole 24 Ore in edicola e quello online, il punto politico. Il punto di Stefano Folli. È già, perché la campagna elettorale a quanto pare è tanto distante dai temi europei in questo momento quanto distante da problemi come questi, che sono quelli che affrontano i cittadini quotidianamente. Stefano Folli, è così? Ma sì, abbastanza. Credo che la nostra campagna elettorale si distingue in Europa per essere la più astratta e la più confusa rispetto ad altre, dove comunque di Europa si parla di più, e questo naturalmente determina una incertezza e determina anche l'idea che il dopo voto da lunedì prossimo possa determinare delle conseguenze sulla nostra politica interna. Non è così, non è come dice Grillo che si va dal Presidente della Repubblica che chiede lo scioglimento delle Camere, perché questo è un voto per l'Europa, non è un voto nazionale. Però sarebbe stato meglio, e temo che adesso sia un po' tardi, che le forze cosiddette europeiste, anche nelle loro critiche all'Europa così come è oggi, fossero state più determinate nel fare una campagna elettorale più orientata su quei temi, su quei problemi, sul come stare in Europa. Ci si è arrivati poco e male, vedo che adesso Renzi sta cercando di recuperare questa dimensione, però per troppo tempo io ho l'impressione che si è fatto un po' il gioco di Grillo in maniera più o meno inconsapevole, e Grillo è stato molto abile a portare la discussione, o meglio il litigio permanente sulle questioni, sull'approccio che a lui è più favorevole. Quindi siamo in questa situazione, ma ormai i giochi sono quasi fatti, vedremo soprattutto quanta gente andrà a votare, perché credo che l'astensionismo sarà piuttosto alto. Grazie Stefano Folli, anche per oggi continueremo a sentirti nei prossimi giorni. Francesco Nisio, ambasciatore italiano a Bangkok, la saluto, buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Vogliamo capire questo, la situazione ci appare da questi lidi molto confusa nel paese nel quale lei si trova, nel quale il nostro rappresentante diplomatico, perché l'impressione è che in Thailandia si stia svolgendo un golpe. Vorrei capire da lei se effettivamente è così, che notizie avete, che cosa sta succedendo? Guardi, quello che sta succedendo è che c'era una tensione crescente negli ultimi tempi dovuta a questa situazione politica che dura ormai da 6 mesi, di forze contrapposte che non trovano una soluzione. Questa tensione crescente aveva portato a temere che nel prossimo weekend, cioè tra sabato e domenica, ci potessero essere degli scontri tra i sostenitori del governo e i sostenitori invece contrari al governo. Per evitare che questo avvenisse, le forze armate hanno dichiarato la legge marziale. Legge marziale che non vuol dire golpe, legge marziale significa che le forze armate sono diventate le responsabili dell'ordine pubblico. Quindi ieri che c'è stata la dichiarazione c'è stato un minimo di perplessità, la gente si chiedeva cosa significasse, si chiedeva anche se questo avrebbe poi portato a conseguenze di tipo golpiste. Oggi, quindi a 24 ore di tempo dalla dichiarazione della legge marziale, sembrerebbe che siano tutti molto soddisfatti perché perlomeno sanno che non ci sarà violenza e che si può tentare di portare tutti i protagonisti a un tavolo di negoziato. Che poi questo succeda è da vedere, però in questo momento la prima reazione è stranamente di pacata soddisfazione da parte della maggior parte dei protagonisti. Questo dal punto di vista dei protagonisti. L'ultima domanda brevemente che le voglio fare è se A, ci sono rischi per gli italiani che si trovano là, B, se se viene sconsigliato ufficialmente di andare nel paese. Assolutamente no, i bambini vanno a scuola, la vita è assolutamente normale, anzi, le dirò che con la legge marziale non c'è nemmeno il rischio di andare a finire in mezzo ai manifestanti perché non possono più manifestare, quindi dal punto di vista della vita quotidiana è l'assoluta normalità. La ringrazio, grazie all'ambasciatore a Bangkok Francesco Nisio. Noi restiamo sull'estero perché l'Italia ieri ha chiesto all'Europa di affrontare ufficialmente la questione dell'instabilità in Libia nel prossimo Consiglio europeo dopo il voto, mentre Giuseppe Buccino Grimaldi, attuale ambasciatore a Tripoli, è stato nominato inviato speciale dell'Italia per la Libia. Alberto Negri. Mentre il generale golpista Khalid Haftar aumenta i consensi tra le milizie di Tripoli e Bengasi e si profila la convocazione di elezioni alla fine di giugno, l'Italia litiga dentro e fuori, anche con l'Unione Europea, perché rischia di perdere nel caos uno dei suoi principali partner energetici ed economici. Bisogna dire che se la compagine italica appare come sempre sorpresa dagli sviluppi internazionali, sul fronte di Bruxelles brillano per incapacità. Nessuno ferma i migranti, nessuno è stato capace di riportare ordine in Libia dopo Gheddafi. Gli americani poi si distinguono per insipienza. Dopo aver bombardato il colonnello lasciandosi dietro malferie, adesso rafforzano la base di Sigonella per fronteggiare un'eventuale evacuazione. La risposta è sempre militare e mai politica. Un segnale preoccupante per una superpotenza che deve affrontare il ritorno della Russia, la potenza cinese e il disordine medio orientale. Restiamo all'estero. La CIA ha utilizzato i programmi per le vaccinazioni per arrivare al nascondiglio di Bin Laden in Pakistan, mettendo in realtà in pericolo così la vita di medici e volontari. 56 le vittime dal dicembre del 2012, minando il rapporto che le organizzazioni hanno costruito non senza fatica con i talebani. Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia, al microfono di Valeria De Rosa, da un quadro della situazione. Ci sono stati dei volontari dell'UNICEF proprio in Pakistan che sono stati vittime di attacchi continui circa un anno fa e che purtroppo è costata la vita proprio a 5 volontari antipolio, a cui si sono andati ad aggiungere in Afghanistan proprio nel gennaio 2014 altri 2 operatori dell'UNICEF di cui purtroppo abbiamo dovuto piangere la scomparsa. L'UNICEF ha reagito in maniera molto dura, noi abbiamo reagito in maniera molto dura a questa notizia, soprattutto perché, ci teniamo a precisarlo, l'UNICEF non è mai stato e ne sarebbe stato parte a un uso improprio di un programma di vaccinazione, soprattutto un programma di vaccinazione utilizzato nella maniera in cui chiaramente è stato utilizzato, ma che per noi invece è strategico e resta strategico malgrado le morti che abbiamo subito. La reazione da parte nostra è stata molto dura e continuerà ad esserlo. Gli Stati Uniti stanno cercando di scusarsi in ogni modo, questo però ha già influito sul territorio. Sì, allora non dimentichiamo che in questi luoghi, dove voglio ricordare l'immunizzazione e specialmente antipolio è fondamentale, perché in queste zone come l'Afghanistan, il Pakistan o paesi come la Nigeria sono gli unici 3 dove la polio è endemica. È fondamentale che ci sia una situazione di questo tipo, però c'è da dire che la reazione chiaramente da parte di questi paesi fondava le sue radici anche su altre motivazioni che erano quelle, appunto, di cui peraltro oggi si faceva riferimento sui giornali, della paura di alcuni mondi musulmani, di alcuni settori del mondo musulmano che la vaccinazione portava a sterilizzare i piccoli. Noi continueremo le nostre campagne di immunizzazione anche perché l'immunizzazione scongiura 3 milioni di decessi di bambini ogni anno ed è essenziale per la salute pubblica di questi paesi. Potrebbe sciogliersi oggi a Milano il nodo che sta contrapponendo i tassisti a Uber. Dopo 4 giorni di sciopero non si ferma la protesta dei tassisti milanesi contro Uber, la multinazionale americana che permette di noleggiare auto e conducente attraverso smartphone. Oggi alle 15 nel capoluogo lombardo arriverà il ministro dei trasporti Maurizio Lupi per incontrare i sindacati dei tassisti. Al centro della discussione le proteste degli ultimi giorni. Intanto, nonostante richiamo all'ordine del prefetto, a cui ha fatto eco anche quello dei rappresentanti di categoria, ieri non sono mancati i momenti di tensione e violenza in città. Tra le richieste dei tassisti anche una maggiore pubblicizzazione della loro app. Non è un problema di pubblicità ma di clientela, secondo Vito Inserrato, responsabile di Radio Taxi, che spiega. Il metodo classico della chiamata è ancora l'80%, è ancora molto alto. L'SMS ha guadagnato tantissimo negli ultimi tempi. L'applicazione stenta a decollare, perché per l'applicazione bisogna avere uno smartphone, non ancora tutti ce l'hanno. Una grossa fetta della nostra clientela sono anziani che hanno bisogno di muoversi in città, di raggiungere gli ospedali e sicuramente non hanno familiarità con applicazione e smartphone. Uber a questi sicuramente non pensa. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora 48 ore di una campagna elettorale forse troppo calda, oscilla intanto lo spread in mattinata, è arrivato a toccare 200 punti base per poi ripiegare sotto i 180, l'analisi tra poco. La prima rata TASI per i comuni in ritardo con le delibere si pagherà entro il 16 di ottobre, annuncia Fassino a Radio 24, nessun rinvio per l'IMU, grande confusione, rischio di aumenti elevato. La CIA ha usato programmi di vaccinazione per arrivare al nascondiglio di Bin Laden. Da allora i talebani hanno ucciso 56 tra volontari, medici e personale impegnato su questo. È stato raggiunto un accordo tra la Cina e la Russia sulle forniture di gas. Saluto Stefania Giannini, ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, gli ascoltatori. Bentornata ai nostri microfoni. Allora, volete abolire i test di medicina d'ingresso? Vogliamo assicurare il miglior sistema selettivo possibile. E forse questo non è il miglior sistema selettivo possibile per far sì che quegli studenti italiani che vogliono fare degli studi medici una scelta di vita, perché insomma dobbiamo considerare che chi studia medicina poi sceglie, no, in quel momento lì la propria esistenza, perché non è una disciplina intercambiabile come altre nella professione, deve avere il diritto e noi dobbiamo avere il dovere di poter selezionare nel miglior modo possibile. E quindi l'ipotesi qual è? L'ipotesi a cui stiamo lavorando si ispira al modello francese, che ha un accesso libero, diciamo, a tutti i potenziali iscritti e studenti del corso di laurea al primo anno e poi con una selezione molto rigorosa procede alla fine del primo anno con due prove intermedie, una semestrale e l'altra alla fine del corso del primo anno, a selezionare gli studenti che si sono rivelati a quel punto sulle materie di studio con esami e con contenuti pertinenti al corso di studio i migliori e i più adeguati a studiare medicina. Senta, abbiamo raccolto su questo un'osservazione di un rettore che insomma in tema di medicina, diciamo, non è uno qualunque, è quello di Bologna, Ivano Dionigi, l'ha intervistato Maria Piera Ceci, sentiamo. È chiaro che è una lotteria, che inadeguata anche alla patente forse va bene lì per affari tuoi, per quelle cose che vanno lì per il gioco dei pacchi, non so bene, quindi il quiz io stesso lo definì un male necessario. Ma l'ipotesi di copiare il modello francese, cioè di far entrare tutti e poi dopo a fine del primo anno fare una sorta di selezione, allora come la vede? Io dico questo, la domanda come li selezioniamo dopo il primo anno, io gliene faccio un'altra, ma al primo anno, nella mia Bologna quest'anno ne sono arrivati 3.000 per fare il test. Da un punto di vista di strutture, laboratori, docenza, i colleghi per far bene le cose fanno fatica a gestire i 440 attuali. Se a Bologna quest'anno ne sono arrivati 3.000, me ne arrivano 2.500, 3.500, 4.500, cioè come li curo, come posso fare una selezione adeguata, qualitativa, come è nelle intenzioni giuste del ministro? Mi scusi se faccio questo discorso da amministratore di un grande condominio, ma non le sembra un problema questo? Giriamo a lei la domanda, ministro. Non mi stupisce e le do la mia risposta. Io credo che dobbiamo veramente tutti fare uno sforzo di cambiamento culturale. Anch'io ho fatto il rettore e capisco i problemi e da ministro non li ignoro e non li ignorerò sicuramente. Però il nostro obiettivo, quello del rettore Dionigi come il mio, deve essere quello di garantire la migliore qualità nella formazione e nella selezione. I problemi strutturali e organizzativi che eventualmente adesso si abbinano, se facciamo un cambiamento come quello accennato o un altro che comunque sostituisca il test a una selezione più aperta e più meritocratica, devono essere affrontati dopo, non devono essere la ragione del blocco, capisce? Perché sennò è inutile riempirci la bocca della demagogia sull'università per gli studenti e per la qualità formativa, se poi di fronte al fatto che le aule servono, che serviranno più aule o che i docenti dovranno fare un lavoro più serio e rigoroso, beh, io dico al collega e amico peraltro stimatissimo Dionigi, i tuoi professori come tutti gli altri, così come i miei lo sono stati, devono farlo comunque un lavoro molto rigoroso. Se questa è l'occasione per stimolarli e non l'hanno fatto finora, ben venga. Vabbè, quindi si aboliscano i test e i professori lavorino di più. No, ora lei fa una sintesi giornalistica apprezzabile, ma diciamo anche un po' iperbolica rispetto a quello che è il mio pensiero, però credo di essermi spiegata con chiarezza, no? Benissimo. Ultima domanda, lei ha accennato, mi diceva adesso, sia che si lavori su quello che è il modello che preferisco, sia su un'altra ipotesi. C'è un'altra ipotesi in campo, un'altra idea sul... No, vede, il modello francese sostanzialmente, senza entrare in tecnicismi, ha una diramazione a Y, cioè c'è un primo anno che è comune non solo a medicina ma a altre discipline che sono paragonabili, no? Come farmacia, insomma tutto quel settore. E poi c'è una biforcazione tra chi continua gli studi medici e chi invece fa altro tipo di studi. È possibile anche immaginare un biennio, è possibile agire su un anno comunque non unico come fanno i francesi e quindi fare tutto il lavoro interno al corso di studi, quindi alla facoltà. Queste sono cose che vanno naturalmente ponderate, per questo siamo partiti subito, capisce? Perché per cui 2014-2015 avrà le regole che c'erano e che sono state millimetricamente rispettate nei modi e nei tempi. Ora abbiamo un anno di tempo e lavoreremo celermente da subito per pensare come assicurare anche agli studenti italiani, mi permetto anche di aggiungere, che non vadano quindi in Romania e in Albania con percorsi discutibili a cercare la soluzione per il loro destino e per i loro sogni, ma possano trovare a casa loro uno strumento adeguato che molti altri paesi hanno trovato meglio di noi. Grazie a Stefania Giannini, ministro dell'istruzione. Buona giornata. Fabrizio Fiorini, direttore investimenti di Aletti Gestielle SGR. Buongiorno. Buongiorno a voi. La chiamiamo perché abbiamo visto possenti oscillazioni del cosiddetto spread, ossia la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e i titoli di Stato tedeschi a 10 anni. E qualche oscillazione naturalmente anche sui rendimenti. Quello che vogliamo capire da lei con una domanda secca è se c'è un allontanamento naturale, per così dire, dai paesi periferici, non solo dall'Italia, oppure se le elezioni europee che si approssimano hanno un qualche impatto, cioè stanno spaventando i mercati, per così dire. Diciamo che sicuramente le elezioni europee hanno avuto un ruolo in questo movimento. Non siamo ancora nel terreno dello spavento, sicuramente per molti stranieri che si sono avvicinati all'Italia negli ultimi 4-5 mesi, vedere quello che è successo in Grecia, ipotizzare possa succedere anche in Italia, ecco, chiaramente spaventa un po', ma non siamo ancora, diciamo, tornati indietro di 6 mesi come lo spread potrebbe far pensare nella velocità di oscillazione. Le elezioni dicono che serve stabilità, nella stabilità l'Italia sicuramente ci guadagna, nella instabilità ci perde, però bisogna anche ammettere una cosa, che la presa di profitto o la volatilità è alta perché la performance del nostro mercato era di gran lunga la migliore da inizio anno, sia sui BTP che sul mercato azionario. Quindi è ovvio che quando cambia qualcosa, sapere di poter avere profitto induce molti investitori comunque ad agire indipendentemente dalla conclusione che hanno voluto trarre. Quindi la combinazione è elezioni più grande performance dei nostri mercati, ecco che la presa di profitto è stata un po' più accentuata di quella che si sarebbe potuta avere in condizioni normali. E grazie a Fabrizio Fiorini anche per la chiarezza, direttore investimenti di Aletti Gestiel SGR. Giovanni Pino, capo di gabinetto dell'autorità per gli scioperi, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. La chiamiamo per la vicenda dei taxi, perché sono quattro giorni che a Milano i tassisti, non tutti naturalmente, senza il placet delle principali organizzazioni sindacali, di fatto si fermano. Come la vedete? Beh, certamente non la vediamo bene da questo punto di vista, insomma, e stiamo ovviamente facendo tutte le indagini preliminari per esprimere un giudizio su questa vicenda, insomma, che indubbiamente si pone in contrasto nettamente con la normativa che regolamenta lo sciopero. Ecco, vede, noi non entriamo in questo momento, non esprimiamo un giudizio sul merito della loro vertenza, insomma, loro richiamano anche profili di legittimità o illegittimità. Il problema è che a una situazione, una lamentata illegittimità, non si può rispondere ponendo in essere un comportamento del tutto illegittimo. È un'interruzione di servizio pubblico, tecnicamente. È un'interruzione Pino. Di servizio pubblico. In questo paese, al di là della fattispecie delittuosa dell'interruzione di servizio pubblico, c'è una legge che regolamenta lo sciopero, e non soltanto lo sciopero, ma le manifestazioni del conflitto nei servizi pubblici cosiddetti essenziali. Questa legge non è che impedisce di scioperare, questa legge dice che se si vuole scioperare in questi servizi bisogna rispettare tutta una serie di norme comportamentali che non sono state fatte in questo caso e che quindi, insomma, essendo il servizio taxi un servizio fondamentale che serve a garantire dei diritti costituzionali dei cittadini, in questo caso l'autorità di garanzia sarà inflessibile su questa vicenda qui. Accertate le responsabilità. State accertando le responsabilità e partiranno le sanzioni, immagino. Stiamo accertando le responsabilità, che guardi, il nostro accertare le responsabilità non si limita solamente al fatto che qualcuno si sfidi o si tiri fuori, per carità, noi stiamo accertando le responsabilità anche eventualmente individuali, anche eventualmente dei singoli tassisti, che poi possono anche essere dei piccoli lavoratori autonomi da questo punto di vista. Cioè, su questo noi apriamo un'indagine a tutto campo, monitoriamo gli organi di stampa e, come è stato fatto in altre occasioni, nell'occasione della precedente protesta dei tassisti sul territorio nazionale, sulla quale peraltro proprio adesso il Tribunale ha dato pienamente ragione alla Commissione, aveva rigettato il ricorso avverso la sanzione pesante che avevamo irrogato quando è stato l'anno scorso, due anni fa, per la protesta nazionale dei taxi. Grazie, Giovanni Pino, capo di gabinetto della Commissione sugli scioperi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. C'è una notizia di pochi istanti fa: un operaio è morto a Valdobbiadene, travolto da una frana di terra mentre stava eseguendo uno scavo in un vigneto. Un suo collega è stato estratto vivo dalla terra. La prima rata TASI per i comuni in ritardo con le delibere si pagherà entro il 16 ottobre e non entro il 16 settembre. Questo è quello che dice il presidente dell'ANCI Fassino a Radio 24. Si attende il decreto del governo. Ancora 48 ore di una campagna elettorale molto calda, ancora scontro in particolare tra Grillo e Berlusconi. Si va verso un addio ai test d'ingresso a medicina, accesso libero al primo anno e selezione alla fine. Questa è l'ipotesi del ministro Giannini, che ce l'ha confermata poco fa. È il momento della borsa. Borse in diretta. È una giornata piuttosto strana, ve lo abbiamo raccontato poco fa, perché lo spread è arrivato a superare i 200 punti base per poi ripiegare sotto i 180, ossia la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, lo abbiamo anche commentato poco fa. FTSE MIB adesso in rialzo di mezzo punto percentuale, FTSE share dello 0,44%. Mi sembra che non ci sia Andrea Fontana, Radio Core, il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Una particolare direzione oggi. Sì, è difficile trovare una direzione perché ci sono molti elementi di incertezza. Innanzitutto c'è chiaramente l'attesa per l'esito delle elezioni europee, le eventuali conseguenze sulla politica interna di alcuni paesi, a lasciare abbastanza cauti i mercati. Dall'altro canto è qualche giorno che abbiamo un calendario macroeconomico piuttosto scarno, e quindi con l'assenza di dati solitamente il mercato fa fatica a trovare una direzione, visto che anche che è fondamentalmente esaurita quella che è la stagione delle trimestrali. Quindi tutti gli elementi che, aggiunti a una debolezza generale dell'euro e a una volatilità, come tu ricordavi, dello spread sui titoli di Stato, almeno per quanto riguarda il rapporto BTP-Bund, fa sì che il mercato, sia quello italiano ma anche quello europeo, proceda un po' in maniera molto, molto diversa nelle varie fasi della giornata, senza trovare una chiara indicazione al rialzo o al ribasso. Piuttosto positive oggi le banche: UBI più 3,18%, Banco Popolare più 3,14%, Unicredit più 1,9%, Popolare di Milano più 0,68%, Intesa San Paolo più 0,61%, in fondo all'Istino Prismian meno 1,45%, Telecom Italia meno 1,48%, Atlantia meno 1,39%. L'ultima notizia che vi voglio dare è che l'assemblea degli azionisti del Monte Paschi di Siena ha dato il via libera proprio pochi istanti fa al maxi aumento di capitale da 5 miliardi di euro. Grazie Andrea Fontana, buona giornata. A voi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Massimo Nicolazzi, amministratore delegato di Centrex, autore del prezzo del petrolio, esperto di mercato del gas, nel quale tra l'altro opera. Nicolazzi, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, siamo con lei a commentare questo accordo che è stato definito storico dopo le tensioni con l'Europa sulle vicende dell'Ucraina, che tra l'altro andrà al voto in questo fine settimana. La Russia si è accordata con la Cina per il gas, si parla di 38 miliardi di metri cubi l'anno che arriveranno, riferiscono le agenzie internazionali, dalla Siberia, un contratto di una durata di 30 anni. Per il momento è solo un memorandum d'intesa, naturalmente, però insomma sembra molto probabile che sarà quello definitivo, un accordo che vale 400 miliardi l'anno, 400 miliardi nel complesso, pardon, riferiscono da Gazprom. Vorrei avere una sua valutazione su cosa cambia anche a livello geopolitico con questo accordo. Ma per noi Europa nulla. Nel senso che stiamo parlando di giacimenti che non riforniscono in questo momento l'Europa e che da anni la Russia trattava di destinare alla Cina, soprattutto quelli nella regione del lago Baikal, sono circa 15 anni che ne discutono, quindi sono riserve di gas che, indipendentemente dalle contingenze attuali, sono sempre state in qualche modo idealmente destinate all'Asia. I giacimenti che riforniscono i tubi che vengono in Europa continueranno a rifornire esclusivamente i tubi che vengono in Europa, perché il tubo è un'infrastruttura fissa e quindi non la puoi girare e non puoi cambiare destinazione a ciò che hai dedicato. Quindi dal punto di vista dei nostri approvvigionamenti la questione mi sembra di totale irrilevanza, ed era da 20 anni che sapevamo che prima o poi sarebbe successo. Sui rapporti Russia-Cina sicuramente è una partnership commerciale di lunga durata che non può che qualificare meglio e di meglio le relazioni tra i due paesi, e quindi da questo punto di vista ha un impatto. Però ripeto, su di noi, tanto anche per darle delle misure, 38 miliardi di metri cubi all'anno sono meno di quello che la Russia ha venduto all'Ucraina nel 2012. Quindi è una dimensione limitata. Le esportazioni russe in Europa a largo alla Turchia l'anno scorso sono state di 163 miliardi di metri cubi, questo per darle un numero di riferimento come paragone. Non può indicare però un progressivo sganciamento, per così dire, dalla Russia, perché se è vero che noi, o almeno l'Europa, un pezzo dell'Europa, è dipendente dal gas russo, dall'altra parte la stessa Russia è dipendente dal fatto che il gas noi lo compriamo, e quindi è come dire, l'allargamento delle esportazioni verso la Cina non potrebbe implicare appunto anche un raffreddamento di rapporti e un progressivo appunto sganciamento dei russi? Ma sa, di solito sono gli interessi geopolitici a seguire quelli commerciali e non viceversa. Da quando ho sentito parlare per la prima volta di Golden Age of Gas, i consumi europei sono scesi del 15%. l'anno scorso la Russia ha fatto il massimo storico di importazione, però se le posso citare un altro numero divertente, i russi hanno mandato di qui un po' più di 160 miliardi di metri cubi di gas, facendo il record di tutti i tempi, e noi come sistema europeo abbiamo lasciato inutilizzati quasi 160 miliardi di capacità di rigassificazione e quindi di diversificazione dalla Russia. Significa fondamentalmente che gli interessi reciproci sono rimasti molto forti e molto saldi anche in funzione del prezzo. Grazie, grazie a Massimo Nicolazzi, le auguro buona giornata. E per chiudere questa parte di Effetto Giorno saluto Carlo Genta, mi ha raggiunto in studio e poi sarà in questo studio tra un quarto d'oretta, 20 minuti circa. Carlo, pare che nemmeno a Coverciano i razzisti abbiano mancato di prendersela con Balotelli. Sì, primo temporalino sulla nazionale di Prandelli dopo le parole di Miele di ieri. Semplicemente uno stupido che ha detto negro di merda a Balotelli, era un ragazzotto insieme ad altri due. C'è stato questo insulto isolato che adesso fa ovviamente un grandissimo rumore. Balotelli ovviamente non ha gradito, ma non ha reagito. Per una volta ha bozzato. Ha bozzato, si è girato verso Marchisio e gli ha detto solamente a Firenze e a Roma sono così scemi. Questa è la reazione di Balotelli. Adesso aspettiamo risposte da Fiorentini e Romani. E senti, esatto. L'altra notizia di giornata mi sembra Mazzarri, no? Che sì. Dice resto. Ha appena parlato, ha detto resto, ho fatto bene in questa stagione. Quinto posto è il miglior risultato degli ultimi 5 anni, quindi rimango, certissimo che io rimanga, e siamo al secondo caso però di una delle più importanti panchine italiane dopo quella della Juventus che avrà un allenatore cui non viene prolungato il contratto, quindi un allenatore in scadenza. Vale per Conte, è una vicenda di cui abbiamo parlato a lungo, vale per Mazzarri che resta ancora un anno di contratto, non c'è prolungamento e dunque non so se questa sia la situazione ideale per progettare un futuro, però queste le decisioni e siamo su questa lunghezza d'onda, aspettiamo il Milan, aspettiamo Seedorf o chi sarà per chi verrà per lui. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Google said it has acquired Divide, a company whose software allows corporations to manage the personal smartphones that consumers increasingly use on the job. Google compra Divide, avete sentito l'annuncio di un paio di giorni fa di una delle reti televisive americane. Google compra Divide perché? Perché vuole affermare il suo sistema operativo Android nel contesto dei business established, diciamo dei business tradizionali, delle grandi aziende che guardano ad Android con un po' di sospetto. Divide sostanzialmente consente di fare che cosa, per darvi un'idea? Consente a un utente che usa un telefonino Android di separare le sue attività di business da quelle private. Tra l'altro se l'è inventata, l'ha creata l'ex capo del settore della divisione tecnologia di Morgan Stanley. Sempre Google, indiscrezioni ci dicono che voglia prepararsi o stia cercando di acquistare Twitch. Twitch sarebbe complementare a YouTube. YouTube è stato acquistato nel 2006 per 1,65 miliardi di dollari ed è un servizio che offre giochi online che, pensate, nel 2011, che è l'anno della sua fondazione, aveva raccolto ben 200 miliardi di dollari. Oggi ha 45 milioni di utenti e di questi 45 milioni di utenti, 1 milione di utenti sono crowdsourcing, cioè producono del content direttamente per questo servizio. Per ora, vi ho detto, si tratta di indiscrezione, ma vi parlo di queste operazioni, alcune confermate, alcune in corso, ce ne sono naturalmente altre, perché Twitter, per esempio, sempre secondo altre indiscrezioni, vorrebbe comprare SoundCloud, che è una piattaforma di musica in streaming tedesca, pensate, ha sede a Berlino e secondo le stime del 2013 SoundCloud avrebbe raggiunto i 250 milioni di utenti. Cosa consente di fare? Consente di condividere musica su internet e diciamo che ama definirsi il YouTube della musica. Vi do queste notizie, ce ne sarà un'altra ancora più importante. Perché? Perché questo 2014, secondo me, sta diventando l'anno chiave del consolidamento e della ridefinizione del contesto strategico in cui i grandi gruppi di comunicazione si stanno muovendo. Per esempio, Facebook in febbraio, lo ricorderete, ha comprato WhatsApp per ben 19 miliardi di dollari. Nel primo trimestre di quest'anno Comcast, che è un grande distributore di content via cavo, ha comprato Time Warner Cable per 68,5 miliardi di dollari, una delle più importanti acquisizioni. E l'altra acquisizione che è, come si dice, in canna ed è straordinariamente importante è quella della AT&T, la grande, gloriosa, vecchia AT&T, la compagnia telefonica americana fondata, figuratevi, addirittura nel 1885, poi acquistata dalla Bell Telephone nel 1889, ha dominato gli Stati Uniti per quasi 100 anni e poi nel 1984, siccome si considerava che la sua fosse una posizione di monopolio, nei tempi di grande deregolamentazione reaganiana, l'azienda fu costretta a dividersi nelle cosiddette sette sorelle, le Baby Bell delle compagnie telefoniche regionali. Ma la AT&T è rimasta, a un certo punto ha separato le sue attività cellulari che ha venduto a Singular e oggi entra dove? Beh, entra nel settore di nuovo televisivo col tentativo di acquisto di DirecTV e si parla di un'operazione che potrebbe sfiorare i 50 miliardi di dollari. Ecco, vi ho dato un quadro fattuale di operazioni miliardarie che vedono come protagonisti gruppi già affermati come Google, come Twitter, come Facebook, i quali, avendo una posizione già di vantaggio, cercano di inglobare con la grande posizione di cassa di cui possono disporre potenziali concorrenti. E dunque c'è una straordinaria operazione da una parte di consolidamento, dall'altra di lancio di nuovi piccoli gruppi che poi possono crescere e nel giro di un anno, partendo con investimenti magari di 10, 20, 30 milioni di dollari, possono valere all'improvviso 1 miliardo, 2 miliardi, 5 miliardi di dollari. Dall'altra c'è la definizione di un quadro competitivo che vede le compagnie che operavano inizialmente su internet, come Google, come Facebook, diventare delle compagnie che a questo punto entrano più anche nel content, cercano di offrire al loro followers, al loro pubblico, un prodotto più completo, per esempio delle piattaforme dei giochi, per esempio del content di altro genere. L'AT&T, che è una compagnia telefonica e che quindi è quella che poi fa girare le reti telefoniche su cui si muovono le reti di internet, e a questo punto lei, per vedere un futuro di crescita, anche lei deve avere una presa sui suoi clienti, aumentare la base dei consumatori e dall'altra le possibilità di aumento di reddito. E in questa chiave che dobbiamo leggere l'acquisto di DirecTV, che ha avuto nel 2013 un fatturato di 31 miliardi di dollari con profitti di 2,8 miliardi di dollari. Qual è la differenza tra DirecTV e per esempio Time Warner? È che la gestione della diffusione del content avviene via satellite, quindi in modo satellitare, e non via cavo, dunque non attraverso il famoso cavo che in America domina, che da noi c'è meno, ma che stiamo costruendo con quello che è stato l'ultimo miglio del digitale terrestre. Tutto questo per dirvi che cosa? Beh, quando in chiusura io dico l'America resta pur sempre la nuova frontiera, lo dico perché c'è una flessibilità, un'energia, una capacità di muoversi in avanti, mentre da noi, non dico in Italia, ma in Europa, siamo lì che vogliamo evitare che entrino gli stranieri, vogliamo evitare che ci siano delle operazioni di fusione, senza capire che nel momento in cui arriva un investitore straniero che porta dei soldi, lo fa perché vuole migliorare le cose, arriva per far crescere un business, non arriva per svuotare un'azienda di contenuto e di soldi come spesso fanno coloro che operano nel private equity. Dunque il senso di questa puntata è, ragazzi, muoviamoci. L'America in questi primi sei mesi, neanche i primi sei mesi, ha già dato prova di una gran quantità di operazioni in uno dei settori più avanzati, quello dell'infotech. E noi dove siamo? E ripeto, noi europei, ragioniamo in un contesto europeo, cerchiamo di essere aperti, perché il futuro e la crescita, visto che parliamo sempre di crescita, c'è nel momento in cui le aziende investono, portano nuovo capitale, nuove idee. L'America lo sta facendo, noi restiamo un po' indietro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera, come abbiamo visto proprio nella puntata di oggi. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, Bon Jovi, il grande cantante americano. Pensate, è l'eterno ragazzo, però anche lui ha 30 anni di carriera. E dunque la dedichiamo a lui, la canzone del giorno, con It's My Life di Bon Jovi. It's my life. New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Filippo Oreggi in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Effetto Giorno a radio24.it per scriverci. Per quanto ci riguarda, ci risentiamo tra un attimo con GR24. Effetto Giorno torna domani alle 13.